penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna sfera. Il tuo nome è diventato una bandiera, tutto comincia in un verde mattino, due brioche e un cappuccino, e poi di corsa trafelato giù al giornale. E questa volta certamente per un colpo sensazionale si tratterebbe di spubblicare, questo dice il direttore, un onesto e ben voluto cantautore, tanto per non fare un torto al professore. Solo due fotografie, magari in primo piano, mentre fa pipì oppure fa l'indiano. Ma l'importante è calcare molto la mano, poi parlarono di soldi, ragione della sua vita, 100.000 più le spese di trasferta e tutto il resto a sua discrezione personale. Penna rossa, penna nera, prese al volo un taxi e le due civette con i flash alle calcagna, e arrivarono alla reggia del cantautore. Non c'erano carri armati né polizia privata, fu facile penetrare nel giardino, ma nella notte il destino stava tendendo un tranello. Penna sfera decise di agire, si tramutò in un albero di mele, pollicino e gatto con gli stivali. Del cantautore nemmeno l'ombra, telefonò in tutti gli alberghi e perfino nei piano bar, pensando che stesse bevendo ancora una coppa di champagne. Il cantautore era un milite ignoto. Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna sfera. Il tuo nome è diventato una bandiera. Sono il re dei festival, delle feste patronali, delle crociere promozionali, dei giornali musicali. Qui c'è sotto un tradimento, tradimento. Decise di rilassarsi i nervi alla prima di un film qualsiasi, dove tutti lo aspettavano, perciò non c'era rimasto nessuno. Ferocemente gridò nel buio: stampa! Il film era molto brutto, ma degno di tre pallini, segno indiscutibile di una stampa libera ed obiettiva. Lui si sentì un fallito, andò in via del Campo Marzio a comprare una pistola e poi ancora giù di corsa il suo giornale. E certamente questa volta per un colpo sensazionale. Direttore, direttore, smettiamola di fare la farsa, non sono nato per fare il servo, lo spione, e fino a prova contraria sono un grande scrittore. E la pistola fece click, come tutta la sua vita, 4 anni sono lunghi da passare in galera, anche con la solidarietà della stampa intera. Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna sfera. Il tuo nome è diventato una bandiera.